anche quando tu sei solo niente paura, la risposta la sai, non chiederla mai. Anche quando resti al buio non tremerai, sarà il tuo cuore, lo sai, a vederci il senso ti guiderà, lottando ti farai strada più in là, il cielo vedrai. Anche quando il tuo cammino sembra insicuro, sempre in piedi starai, non ti fermerai. Anche quando il tuo sorriso resta in silenzio, non abbatterti mai, non ti servirà la polvere, le lacrime, la tua volontà le dissolverà. Anche quando sei sfinito non cedere, nel letto ti poserai, ma non dormirai. Anche quando i tuoi respiri si fermeranno, tu non smettere mai di amare, lo sai, di credere, di crescere la pace che hai, la tua libertà.